ad alta voce. Sandro Lombardi legge Gli occhiali d'oro di Giorgio Bassani. Fadigati si accontentava di niente, in fondo, o almeno così sembrava. Più che restare lì, nel nostro scompartimento di terza classe, con l'aria del vecchio che si scalda in silenzio davanti a un bel fuoco, altro non pretendeva. A Bologna, per esempio, appena sbucavamo dal sottopassaggio sul piazzale di fronte alla stazione, saliva su un tassì e via. Dopo una volta o due, all'inizio, che venne con noi fino all'università, non successe mai che ce lo trovassimo vicino senza sapere come liberarcene. Conosceva bene, perché glielo avevamo detto, le trattorie a buon mercato dove, intorno all'una, avrebbe potuto raggiungerci, alla Stella del Nord, in Strada Maggiore, o da Gigino, ai piedi delle Due Torri, o alla Galleria Faraona, in San Vitale. Non vi capitò mai, tuttavia, per quanto posso ricordare. Entrando in un locale di via Zamboni, un pomeriggio per giocare a boccette, lo scorgemmo seduto a un tavolino in disparte, con un caffè e un bicchiere d'acqua davanti, immerso nella lettura di un giornale. Si accorse subito di noi, certo, ma finse di no. E anzi, dopo qualche minuto, chiamò il cameriere con un cenno, pagò, scivolando quindi fuori alla chetichella. Non era né indiscreto né noioso, insomma. Eppure, a poco, nonostante che, grosso come era, si rannicchiasse talmente sulla panca di legno dello scompartimento fino a occuparne l'ottava parte soltanto e anche meno, a poco, senza volerlo, cominciammo pressoché tutti a mancargli di rispetto. Di nuovo fu lui a sbagliare, per la verità, quando una mattina, mentre il treno sostava a San Pietro in Casale, d'un tratto pretese di scendere, chissà perché, a procurarci i soliti panini e biscotti al bar della stazione. «Tocca a me», dichiarò, né ci fu verso di trattenerlo. Lo vedemmo dunque dal treno attraversare goffamente i binari. C'era da scommetterlo che si sarebbe dimenticato quanti panini doveva comperare e quanti pacchetti di biscotti, e difatti puntualmente si verificò proprio questo. Col seguito di noi a spenzolarci come coscritti ubriachi dal finestrino e a dargli di lontano, urlando e sghignazzando senza ritegno, gli ordini più contraddittori. E di lui, sempre più confuso e affannato, via via che i minuti passavano, tanto che per un pelo non restava a terra. Dirò poi di Delilier, che non gli rivolgeva mai la parola, affliggendolo ogni volta che gli capitava con trasparenti allusioni, con brutali doppi sensi. Ma lo stesso Nino Bottecchiari, al quale da bambino aveva levato le tonsille ed era il solo a cui desse del tu, prese a trattarlo freddamente. E lui? Era strano a vedersi. E anche penoso. Più Nino e Delilier moltiplicavano le sgarberie nei suoi confronti e più lui si agitava nel vano tentativo di riuscire simpatico. Per una parola buona, uno sguardo di consenso, un sorriso divertito che gli fossero venuti da loro due, avrebbe fatto qualsiasi cosa. Con Nino, che era a giudizio unanime l'intellettuale del gruppo e l'anno precedente aveva partecipato, come me, ai littoriali della cultura e dell'arte a Venezia, si era classificato quinto in dottrina del fascismo e secondo assoluto in critica cinematografica, Fadigati cercava di intavolare discussioni che dessero modo al nostro compagno di brillare sul cinema, appunto, e perfino sulla politica, sebbene di politica, come precisò più volte, lui non se ne intendesse granché. Ma era sfortunato. Non ne azzeccava una. Cominciava a discorrere di cinema. Qui se ne intendeva. Erano anni, tra l'altro, che passava le sere nei cinema. E Nino gli dava subito addosso istericamente, come se non gli riconoscesse nemmeno il diritto di parlarne. Come se sentirgli dichiarare, non so, che le vecchie comiche di Ridolini erano stupende, bastasse a fargli cambiare completamente parere sull'argomento. Respinto, tentò allora con la politica. La guerra di Spagna stava ormai per concludersi con la vittoria di Franco e del fascismo. Una mattina, scorrendo la prima pagina del Corriere della Sera, sicuro di non dir nulla che potesse dispiacere né a Nino né a nessun altro di noi, ma anzi convinto, senza dubbio, di trovarci tutti quanti del suo parere, Fadigati espresse l'opinione, niente affatto peregrina a quell'epoca, che l'imminente trionfo dei nostri legionari fosse da considerarsi una gran bella cosa. E invece, ecco d'un tratto, scatenarsi l'imprevedibile. Come attraversato dalla corrente elettrica e alzando la voce in modo tale che Bianca, a un certo punto, credette bene di mettergli una mano sulla bocca, Nino cominciò a sbraitare che forse era un disastro, viceversa, che forse era il principio della fine e che si vergognasse lui, alla sua età, di essere rimasto così irresponsabile. «Scusa, caro figliolo, vedi, se permetti...» badava a ripetere Fadigati, pallido più di un morto. Smarrito sotto la bufera, non capiva. Girava gli occhi intorno, quasi a chiedere una spiegazione. Ma anche noi eravamo troppo sconcertati per dargli retta. Soprattutto io, che l'anno avanti, nel corso di una delle solite discussioni, ero stato accusato proprio da Nino, gentiliano lui e ardente assertore dello stato etico, di essere imbevuto di scetticismo crociano. E poi, dopo tutto, erano davvero atterriti gli occhi rotondi del dottore, o non piuttosto brillando vividi dietro le lenti, pieni di un'acre soddisfazione, di una infantile, inesplicabile, cieca allegria? Un'altra volta con Delilier si parlava tutti assieme di sport. Se Nino Bottecchiari era ritenuto in maniera di cultura il nostro numero uno, nello sport era Delilier che primeggiava indiscutibilmente. Ferrarese soltanto per parte di madre, nativo di Imperia, mi pare, o di Ventimiglia. Il padre era morto sul Grappa nel 18, alla testa di una compagnia di arditi. Anche lui, come Vittorio Molon, aveva compiuto a Ferrara solamente le scuole medie superiori, i 4 anni del liceo scientifico, cioè. Erano stati sufficienti quei 4 anni, in ogni caso, per fare di Eraldo, che aveva vinto nel 35 il campionato regionale di box, categoria allievi, pesi medi, e a parte questo era un bellissimo ragazzo, alto 1,80 m e con un volto e un corpo da statua greca, un vero e proprio reuccio locale. Già gli si attribuivano, e non aveva ancora 20 anni, 3 o 4 conquiste clamorose. Una sua compagna di scuola, suicidatasi l'anno stesso che lui aveva vinto il titolo di campione emiliano, lo aveva fatto, si diceva, per amor suo. Da un giorno all'altro lui non l'aveva più nemmeno guardata, assicuravano. E allora lei, poverina, era corsa di filato a buttarsi in po'. Certo è che, anche fra noi, nell'ambito puramente studentesco, Eraldo Delilier non era amato, no, ma idolatrato, addirittura. Per vestirci ci si regolava sui suoi abiti, che la madre gli spazzolava, smacchiava e stirava indefessamente. Stare accanto a lui la domenica mattina, con la schiena appoggiata a una colonna del portico del caffè, a guardare le gambe delle donne che passavano, era considerato in genere un privilegio. Insomma, una volta in treno, verso la fine di maggio, stavamo discutendo di sport con Delilier. Dall'atletica si finì a discorrere di box. Non dava mai troppa confidenza a nessuno, Delilier. Quel giorno, tuttavia, si aprì abbastanza. Disse che di studiare non gli andava, che aveva bisogno di troppi soldi per vivere e che perciò, se gli fosse riuscito un certo colpetto che meditava, dopo si sarebbe dedicato completamente al pugilismo. «Come professionista?» osò chiedergli Fadigati. Dell'Ilier lo guardò come si guarda uno scarafaggio. «Si capisce», disse. «Ha paura che mi rovini la faccia, dottore?» «Della faccia non me ne importa. Per quanto vedo è già molto segnata lungo gli archi sopraccigliari. Sento comunque il dovere di avvertirla che la box, specie se praticata professionalmente, a lungo andare risulta deleteria per l'organismo. Se fossi nel governo io proibirei il pugilato, anche quello dilettantistico. Più che uno sport, lo considero una specie di assassinio legale, pura brutalità organizzata». «Ma faccia il piacere», lo interruppe Dell'Ilier. «Ha mai visto tirare?» Fadigati fu costretto ad ammettere di no. Disse che, per quanto medico, violenza e sangue gli facevano orrore. «E allora, se non ha mai visto tirare?» tagliò corto Dell'Ilier, alzando la voce. «Perché parla? Chi ha chiesto il suo parere?» E di nuovo, mentre Dell'Ilier gli indirizzava quasi gridando queste parole e quindi, voltategli le spalle, spiegava a noi, assai più calmo, che la box, contrariamente a quello che certi fessi possono pensare, è gioco di gambe, scelta di tempo e scherma, in sostanza, soprattutto scherma. Di nuovo vidi brillare negli occhi di Fadigati la luce assurda, ma inequivocabile, di una interna felicità. Nino Bottecchiari era l'unico fra noi che non venerasse Dell'Ilier. Non erano amici, insomma, però si rispettavano a vicenda. Di fronte a Nino, Dell'Ilier attenuava sensibilmente le sue abituali pose da gangster e Nino, dal canto suo, faceva molto meno il professore. Una mattina Nino e Bianca non c'erano. Fu a giugno, durante gli esami, mi pare. Eravamo soltanto in sei, nello scompartimento, e tutti uomini. Mi ero lamentato per un leggero bruciore alla gola. Ricordandosi che da ragazzo, durante il periodo dello sviluppo, aveva dovuto curarmi a varie riprese, Fadigati si offerse subito, premurosamente, di darmi una guardata. «Vediamo». Rialzò gli occhiali sulla fronte, mi prese il capo fra le mani e cominciò a scrutarmi nelle fauci. «Faccia a...» intimò. Eseguii. E lui era ancora lì che mi esaminava la gola e intanto si raccomandava, bonario e paterno, che mi riguardassi, che non sudassi perché le tonsille, sebbene ormai abbastanza ridotte, erano rimaste chiaramente il mio tallone d'Achille. Quando Dell'Ilier ad un tratto uscì a dire: «Scusi, dottore, appena finito, le dispiacerebbe dare una guardata anche a me?» Fadigati si voltò, stupito della richiesta e del tono insolitamente soave con cui Dell'Ilier l'aveva formulata. «Cosa sente?» domandò. «Sente male a inghiottire?» Dell'Ilier lo fissava coi suoi occhi azzurri. Sorrideva, scoprendo appena gli incisivi. «Non ho mica male alla gola», disse. «E dove allora?» «Qua», fece Dell'Ilier, accennando ai propri pantaloni all'altezza dell'inguine. Spiegò quindi, calmo, indifferente, ma non senza una punta di orgoglio, che soffriva da circa un mese delle conseguenze di un regalo delle verginelle di via Bonporto, una notevole fregatura, altro che balle, a causa della quale aveva dovuto sospendere anche la ginnastica in palestra. Il dottor Manfredini, aggiunse, lo curava col blu di metilene e con quotidiane irrigazioni di permanganato, ma la cura andava per le lunghe e lui, invece, aveva bisogno di ristabilirsi al più presto. Le mie donne cominciano a lamentarsi, capirà. E dunque, Vorrebbe essere così gentile, ripeté, di darmi un'occhiatina anche lei? Fatigati era tornato a sedersi. Ma, caro, balbettò, lei sa bene che di quel genere di malattie lì io non me ne intendo. E poi il dottor Manfredini... «Vada là, che se ne intende, e come!» sogghignò Dell'Ilier. Senza dire che qui in treno, riprese Fatigati, guardando spaventato verso il corridoio, «qui in treno come si fa?» «Oh, per questo!» replicò pronto Dell'Ilier, torcendo le labbra sprezzante, «c'è sempre il gabinetto, se vuole!» Ci fu un attimo di silenzio. Ad un tratto Fatigati scoppiò in una gran risata. «Ma lei scherza!» gridò. «Ma possibile che scherzi sempre? Mi prende proprio per un ingenuo!» Quindi, curvandosi un poco di fianco fino a battergli con la mano su un ginocchio, «lei deve stare attento!» disse. «Se non sta attento, un giorno o l'altro farà una brutta fine!» E Dell'Ilier, di rimando, ma serio, «badi di non farla lei, piuttosto». Di lì a qualche giorno, prima di riprendere il treno per Ferrara, capitammo verso le 6 di sera da Maiani, in via Indipendenza. Faceva un gran caldo. Era stato Nino Bottecchiari a lanciare la proposta di un gelato. Anche allora, prima del rammodernamento del 40, la pasticceria Maiani era una delle maggiori di Bologna. Consisteva di una enorme sala semibuia, dal cui soffitto, altissimo e tenebroso, pendeva un solo gigantesco lampadario di vetro di Murano. Del diametro di 2 o 3 metri, il lume raffigurava una rosa. Logrimivano in gran quantità certe piccole lampadine impolverate, dalle quali pioveva in basso una luce straordinariamente debole. Appena entrati, gli occhi ci corsero subito al fondo della sala, di dove proveniva un suono di risate. Saranno stati una 20 di giovani, la maggior parte in tuta sportiva blu scura, chi buttato a sedere, chi in piedi e ognuno alle prese con un semifreddo in coppa o un cono gelato. Intanto parlavano ad alta voce negli accenti più vari, bolognesi, romagnoli, veneti, marchigiani, toscani. A guardarli si capiva che appartenevano a quella particolare categoria di studenti universitari assai più assidui di stadi e piscine che non di aule scolastiche e biblioteche. Eccetto Dell'Ilier, che ci salutò immediatamente, di lontano, alzando il braccio in un gesto amichevole, dapprima non ravvisammo nel gruppo altra persona di conoscenza. Se non che, dopo qualche istante, non appena ci fummo abituati alla mezza luce dell'ambiente, scorgemmo fra loro un signore attempato che sedeva accanto a Dell'Ilier, volgendo le spalle all'ingresso. Stava lì, col cappello in testa, le mani raccolte sul pomo del bastone, senza prendere nulla. Aspettava, come un padre dal cuore tenero che abbia consentito a pagare il gelato a un branco di figli e nipotini turbolenti e attenda in silenzio, un po' vergognoso, che i cari marmocchi abbiano finito di leccare e succhiare a loro piacere, per poi, più tardi, portarseli a casa. Quel signore era il dottor Fatigati, naturalmente.